Wolfgang è stato proclamato cavaliere dello Speron d'Oro. È lo stesso ordine ricevuto da Gluck. Puoi immaginare quanto rido quando lo sento chiamare signor cavaliere. Ormai tutto gli è diventato piccolo, è cresciuto e si è irrobustito. La voce non gli permette più di cantare, è completamente scomparsa. Non ha più né acuti né bassi. Non riesce a tirar fuori 5 note pulite. Ed è triste, perché non può cantare le sue composizioni come gli piaceva fare. Mi chiedi se suona ancora il violino. Lo suona, ma non in pubblico. Cara sorella, Napoli è bella, ma troppo affollata. E per l'insolenza del popolo non so se superi perfino Londra. L'Armida abbandonata di Iommelli è bella, ma troppo seria e all'antica per il teatro. Le danze sono miserabilmente pompose. Il San Carlo è bello. Il re, un gran maleducato. Durante tutta l'opera sta in piedi sopra uno sgabello per sembrare un po' più alto della regina, che invece è bella e gentile. Monaco, 10 ottobre 1777. Mon très cher père, Miss Libice ha ragione. Andate in Italia, mi dice. Lì si è stimati e onorati. Se rifletto bene, in nessun altro luogo sono stato così apprezzato. E ne viene grande credito a scrivere opere in Italia, soprattutto a Napoli. Se compongo per Napoli, mi chiameranno dappertutto. Non si guadagna molto, ma si conquista più onore e reputazione che con 100 concerti in Germania. E sarei felice perché dovrei comporre, che è la mia sola gioia e passione. Ma ora devo parlarvi dei pianoforti di Stein. Se prima preferivo quelli di Spett, adesso devo dare il premio a Stein, perché smorzano molto meglio il suono. Se tocco la nota con forza, posso lasciare il dito sul tasto o ritirarlo e il suono si spegne nel momento stesso in cui l'ho fatto sentire. Posso toccare come voglio, il tono rimane uguale. Non tintinna, non è né troppo forte né troppo debole, risponde a ogni colpo. Sono pianoforti diversi, perché hanno uno scappamento. Senza scappamento tutti i pianoforti hanno un suono distorto e vibrano. Quando Stein finisce la cassa di risonanza, la espone all'aria, alla pioggia, alla neve e a tutti i diavoli perché salti e si spacchi come le pare. Poi incolla dei rappezzi di legno perché resista e tenga bene. Stein è pazzo di sua figlia. Ha 8 anni, ha talento, ma se continua così non combinerà nulla. Appesantisce la mano e non raggiungerà mai la velocità. Non imparerà mai la cosa principale, più importante e più difficile in musica: il tempo. Chiunque la veda suonare senza ridere deve essere di sasso, come suo padre. Si siede davanti alle ottave superiori della tastiera, mai al centro, in modo da avere più occasioni per dimenarsi e fare smorfie. Rovescia gli occhi, si dà pena, ansima perfino, non per goffaggine, ma perché è stata abituata così. Quando un passaggio ritorna 2 volte, la seconda lo suona più lentamente. Se torna 3, ancora più lentamente. Se un passaggio deve essere ben marcato, lo fa col braccio e non con le dita, e lo rende pesante, goffo. Terrò sotto chiave tutta la musica che possiede. Metterò un fazzoletto sulla tastiera e le farò fare esercizi, lentamente. Passaggi, trilli, acciaccature e così via, fino a quando entrambe le mani siano a posto. Sono sicuro di farne una buona pianista. Il fatto che io rimanga sempre a tempo meraviglia tutti. Nessuno riesce a capire che nel rubato di un adagio la mano sinistra non voglia saperne niente di quello che fa la destra. Negli altri pianisti la sinistra rallenta sempre. L'adagio dalle variazioni sopra un minuetto di Fischer, K179, dimostra quale valore espressivo Mozart sappia affidare alla tecnica del rubato.